Buonasera, una nuova puntata di Cinema alla Radio, la trasmissione che Hollywood Party dedica ai grandi classici della storia del cinema. Oggi io, che sono Steve Della Casa, vi racconterò un film che ci fa molto piacere presentare qui perché è anche un'occasione per ricordare un grande attore. Il 4 giugno di 10 anni fa moriva infatti Nino Manfredi, uno dei personaggi chiave della commedia all'italiana, poi passato anche alla regia, e proprio con una sua regia vogliamo ricordarlo, con la sua regia di maggior successo popolare, un film che nel 1970, l'anno in cui è stato prodotto, incassò 4 miliardi e fu il primo incasso italiano della stagione. Andò al Festival di Cannes e vinse la Camera d'Or, che allora, all'epoca non si chiamava ancora così, ma comunque il premio come migliore opera prima. Era il debutto alla regia di Nino Manfredi, infatti, per Grazia ricevuta, un film che è famoso per molti motivi, per questo incasso, per una canzoncina scritta da Guido Maurizio De Angelis che all'epoca fu molto popolare, e anche per una storia molto strana, molto sorprendente, che è parzialmente autobiografica e che Manfredi ha cucinato proprio pensando al suo personaggio, che infatti primeggia in tutto il film. I titoli di testa stanno già scorrendo, quindi vi dico subito che il film è stato scritto come soggetto da Nino Manfredi, da Gigi Magni, la sceneggiatura invece è firmata da Manfredi, da Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, che sono una coppia storica di sceneggiatori all'epoca molto in auge, una specie di alternativa ad Age Scarpelli, e che ci sono molti attori che avranno piccole parti. Oltre a Nino Manfredi che è protagonista, c'è Delia Boccardo, della quale parleremo ancora, c'è Lionel Stander, c'è Paola Borboni, una diva di tanti anni fa che, come spesso è avvenuto all'epoca anche per Alida Valli e per molte altre dive degli anni 20 e 30, ritornava in auge. Poi c'è un grande attore di teatro come Mario Scaccia, c'è Fausto Tozzi, insomma ci sono molte presenze importanti. Sta incominciando in questo momento, per Grazia ricevuta, una lunga scena muta ci porta in un ospedale poco attrezzato, nel quale sta arrivando il primario perché c'è un caso di assoluta importanza. Sono in tempo oppure ho fatto una corsa inutile? Non lo so, professore, perdi qua. Ah, già. Certo che è gravissimo. Buonasera, professore. Buonasera. Ha fatto un volo e già tanto sia ancora vivo. Bisognava portarlo in un centro di rianimazione. Che vuole? Qui non siamo molto attrezzati. Quella chi è? Una parente? Non so, sarà la moglie. Mi dispiace di aver devastato la festa. No, anzi. Una rottura di scatole senza precedenti. Stavo appunto cercando una scusa per andarmene. Che c'ha? Ma, per ora soltanto frattura del cranio e frattura del bacino. Stanno sviluppando adesso l'ultime lastre. Andiamo male, eh? T'ho chiamato solo per scrupolo di coscienza. Condizioni generali? È stato di shock. Me l'avete chiesto l'autorizzazione? Aspettavo te. Su, portiamolo di là. Lei è la moglie? Io dovrei chiedere l'autorizzazione per l'intervento, ma ci vorrebbe qualcuno, un parente. Non ne ha, professore. Me la prendo io la responsabilità. Sì, però io non posso nasconderle. Insomma, è grave. Molto grave. Scusi la brutalità, ma tanto vale operare. Almeno c'è una speranza. Va bene. Il professore dice sempre così, però è un mago. Vieni, Giovanna. Capitano, come fai a guarire se non vai mai a letto? Ma a guarire di che? L'operazione che deve affrontare il primario, interpretato per l'appunto da Fausto Tozzi, è una operazione molto difficile, come apprendiamo da questi dettagli che tra poco ascolteremo. Il paziente deve essere operato e le circostanze per le quali si è ferito non sono affatto chiare. Ecco, qui la rima di frattura si vede meglio. Che fai? Che fai? Che stai facendo? Cambio il flacone, è finito. Il flacone? Questo ha bisogno di sangue, non gli diamo l'acqua. Cammina, sbrigati! Professore, e il sangue dove lo piglio? E che ne so? Levalo alle suore, alle infermiere. Telefono ai pompieri, al Padre Eterno! Vediamo il fondo dell'occhio. Chi è? Un certo Benedetto Parisi. Ma è caduto o si è buttato? Questo non lo so. Oh, la luce! C'è un'ipertensione endocranica abbastanza importante. Quindi il sospetto di emorragia. Altro che sospetto, qua se non ci sbrighiamo. Benedetto! Benedetto! Posso portare l'anestesia? Se vuole ci proviamo, professore, ma non so se la regge. Vabbè, mi arrangerò con l'anestesia locale. Benedetto! Benedetto! A Benedetto, diamo tua zia. E falla chiamare. Come va il polso? Quasi niente. E la respirazione? Respira, respira, respira. Di 33. 33. Siringa per analgesia e trapano elettrico. C'è sangue. Aspirare, aspirare, aspirare. Non vai, Benedetto. Io vado giù al fiume. Vengo pure io. Andiamo a far bagno. No, andiamo giù col castello. Tampone, tampone. Aspettatemi. Tampone. Sotto il ponte di Malacca c'è Ninì che fa la gacca. La fa dura, dura, dura e il dottore la misura. La misura 33, 1, 2 e 3. Per grazia ricevuta, il film che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio è un film del 1970. All'epoca si parlava molto di psicanalisi e di fatto Dino Manfredi fa sua questa moda, perché mentre ascoltavamo questi dialoghi in sala operatoria, il suo inconscio, e lui infatti la persona che sta per essere operata, lo riporta più volte a quando era bambino. Si dice aspirare, lui aspira le sigarette, insomma per assonanza con le operazioni che stanno facendo, che evidentemente lui nel suo inconscio percepisce, il ricordo va a quando era bambino. E infatti adesso la storia si sposta completamente in un piccolo paese della Ciociaria, dove lui appunto bambino e gioca con tanti altri bambini. Ambro. Sono meglio quelle con le garzie. Perché? Boh, l'ho sentito di. Quella lì non c'ha manco le mutande. Quali? La terza. Io c'ho fame. Chi è? Se stavano a guardare il culo, oh, e quel delinquente di Benedetto è sempre lui. Povera creatura, non c'ha né padre né madre. Che educazione poi gli ha dato quella mignotta di sua zia? Io non gliela faccio più, così. Me so stufata. Io de metto all'orfanotrofio. Ogni giorno ci vorrebbe un baro di scarpe nuove. Guarda come te sei ridotto, guarda delle zampe. Sei una zella di fanga de morchia. Ma dove sei stato, se passa a me? A due tre. Alle due, e poi sono le 8:30. A giocare. E che è quella? Ci metteva Reghina. Lo vedi che sei pazzo, pazzo sei. Ma che peccato ho fatto io a dover combattere con un castigo del Dio come te? Almeno se te rompessi una zampa, forse te fermeresti un momentino. Speravo che mo che devi fare la comunione diventavi più buono. Ma che peggio, sempre peggio. Ma che vuol dire essere buono? A me mi pare di essere buono. No, che non te pare. Tant'è vero che non ci dormi. Di giorno sei l'assassino che sei e la notte c'hai paura. Non è vero, mi svegliano i rumori. Non so i rumori, so i rimorsi che te se magnano. Non è vero, non è vero. E dove vai, mo? A cambia l'acqua. E dovresti cambiare i piedi, tanto ormai te se puliscono più. E per forza, senza la varichina. La coscienza te dovresti lavare con la varichina. L'ossessione religiosa era una componente molto forte nelle campagne italiane degli anni 50, che è più o meno l'epoca in cui la storia è ambientata, 40 e 50, la storia che vede Nino Manfredi bambino. Questa ossessione religiosa, come vedremo nel film, si può materializzare in molti aspetti, ma già nei bambini il senso del peccato è un senso che viene loro inculcato in maniera molto forte e che loro interpretano a modo loro, in maniera anche divertente, ma tutta la commedia, tutta la storia di Per Grazia Ricevuta è una storia che mescola aspetti molto seri con aspetti francamente divertenti, proprio come il dialogo tra i due bambini a quale stiamo per assistere. Sembra in peccato mortale. Eh? Sembra in peccato mortale. Ma che c'hai io? Mi fa capire. È tutta colpa tua, dove mi ha portato oggi? Dove? A fornicare. Ma se io manco so che vuol dire, che è sto fornicà? Me l'ha detto mio nonno, guarda quelle mutande, specialmente le donne, è un peccato mortale. Ma che ho capito, tu sei scemo. Peccato mortale è una cosa che a falla se muore. A tocca i fili della corrente è peccato mortale. Poi l'ho avvertito, fa un po' come te pare, io ho già fatto un fioretto a San Giuseppe che non te frequento più, te saluto. Sai quando gliene frega a San Giuseppe? O dici te, gli frega. Non me ne frega niente a me, figuriamoci a lui. Nella casa dove vive con la zia che l'ha ospitato dopo essere stato orfano, il piccolo Nino Manfredi sente degli strani rumori. Questi rumori hanno una spiegazione, tra poco la prenderemo, ma per l'istante noi possiamo cogliere la grande paura che generano nella sua mente da ragazzo. Una paura che è fortemente collegata appunto con le ossessioni religiose e con un catechismo, come ascolteremo adesso, spiegato in maniera piuttosto singolare. La materia dell'estrema unzione è l'olio d'oliva benedetto dal vescovo il giovedì santo. Con esso il ministro compie l'unzione su 5 sensi dell'infermo, ripetendo la formula: e questa santa unzione ti perdoni, Signore, ogni peccato commesso con la vista, con l'udito, con il tatto e con il gusto. C'è manca il naso. Eh? Non gli avete un del naso? No, il naso no. Perché? Perché no, zitto e seduto. Io lo so perché. Perché uno che peccati può fare col naso? Mio nonno ci tira sul tabacco. Pure il mio. E che è un peccato? E allora l'odori? Casomai la puzza è un peccato, ma quella si fa dal culo. Don Guerì, ci vuole pazienza, so creatura. Altro che pazienza, con questi ci vorrebbe la frutta. Don Guerì, è ora. Via giù. Fioli, il grande giorno è vicino. Bisogna prepararsi degnamente a ricevere il Signore. Ma niente paura, eh? Non sarete soli. Qualcuno vi aiuterà ad essere più buoni. Vi servirà di esempio e di guida e non vi abbandonerà un solo istante. Chi è questo qualcuno? Su, è tanto facile. Boh. È l'amico celeste, il santo che da oggi sarà il vostro compagno inseparabile. Ecco qua, uno per uno. Sceglietelo da per voi. Io voglio San Paolo. Io San Lorenzo. Prendete, ce n'è per tutti. Io voglio Sorocco, quello portare. No, quello portare lo voglio io. Io voglio San Francesco, Don Guerì. Non mi camminate sull'insalata. Che è meglio, San Pasquale o San Luigi, Don Guerì? Sono tutti buoni. A me non mi piace Don Pasquale. Se mi dai San Luigi ti do 200 cose. Eh sì, San Luigi vale di più, che te credi? Don Guerì, io questo col porco non lo voglio. Come? Sant'Antonio Porcino, un signor santo, vai, va. Benedetto, oh, e tu? Ma andiamo a fare da soli? Se c'è uno che non può far meno dell'amico celeste, quello sei tu. Allora mi pio quello con la spada. Come si chiama? San Giorgio no, è già stato assegnato. È mio! Allora che c'è rimasto? Hai voglia, santi? Aspettate. Sant'Eusebio morì sul rogo bruciato dai turchi. Simbolo di obbedienza e di fede, proprio quello che manca a te. Chi è che c'è Sant'Eusebio? Io no! Io! Fammi un piacere, lo chiamo a lui che ne ha più bisogno. A te ti do... ti do Santa Rita. Oh, gli ha dato Santa Rita! Beh, che c'è da ridere? È la femmina! La moglie fuoco! Ma che sei matto? Hai detto matto al capitano, poi ti faccio fucilare! La moglie fuoco! Così somiglia a Sant'Eusebio! Beh, se l'hanno bruciato le turchi, lo potevamo bruciare pure noi! Ma ti tiro una zappata agli stinghi, mi hai fatto male! Ma che fai? Questo gli è da fuoco davvero! continua la vicenda di Per Grazia Ricevuta, finché vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio. Siamo nuovamente di notte, il bambino in questione, Nino Manfredi da bambino, durante la notte continua a sentire quegli strani rumori, ma questa volta si capisce, noi spettatori e in parte anche lui capiamo perché c'è questo via vai di strani suoni durante la notte in quella piccola casa di campagna. Zia! Torna subito a letto, sa? Guarda che se mi alzo te le do! Zia! Aspetta! Accendi la luce. È un momento! Che fai? Sto a cercare i prosperi. Ma insomma, adesso non posso stare in pace manco in camera mia. Che vuoi? Posso dormire con te? E che è sta novità? Sta casa fa troppi rumori. Sarà stato un gatto, su, torna a letto, di le preghiere e vedrai che dormi tranquillo. Le posso dire qui? Vabbè, va, ma sbrigati. Fa presto. Ma c'è pure qui da te. Che? Non senti? Zia! Che c'hai? Che è successo? Fernando. Che c'ha l'armadio? C'è zia tua qua? C'è. C'è uno, ma se io non vedo niente. Ah, ma allora a te la paura ti fa vedere pure le cose che non ci stanno. Tranquillizzati, non c'è nessuno. Chissà che ti sei insognato e ti ha fatto impressione. No, zia, guarda, guarda, zia tua lo spalanca l'armadio. Vedi che non c'è nessuno. C'ho paura. Ma che paura se non c'è nessuno? Guarda, lo vedi che non c'è nessuno? Sarà nato? Chi? Quello con la barba. Quello con la barba? Ma non ci avrai un po' di febbre tu, figlio? Io l'ho visto, giuro, era tutto quanto rosso con la barba. Rosso con la barba. Era Giovanni. Zitto, ma che dici, sei matto? Mi sembrava Giovanni. Ah, ma io la faccio benedista a casa. Chiamo Don Guirino e glielo faccio levare sto malocchio. Tieni, bevi un po' d'acqua che ti passa la paura. Rosso con la barba, chi poteva essere? Giovanni. Ma allora te sei fissato? Ah, sai chi poteva essere? Ma davvero l'hai visto? Sì. Pensaci bene. Rosso con la barba. Ma era il tuo amico Celeste. Sant'Eusebio. Bravo, Sant'Eusebio, che ha voluto apparirti per convincerti che c'è lui che ti protegge. Com'è che tu non l'hai visto? Ma perché è l'amico tuo, mica il mio. Oh, Benedetto, guarda che non lo devi dire a nessuno, manca al prete. Perché? Perché Sant'Eusebio non vuole, è un segreto fra te e lui. E se lo racconti in giro e te ne vanti, fai peccato di superbia, che è terribile. Il santo si offende e t'abbandona. Giura che non lo dici. Giuro. Dormimo, va. A dove vai? A dormire. Questa notte poi dormi qua. Che poi non capisco perché non ci dormiamo sempre insieme. C'è sto lettone, che ce fai? Già, che ce faccio? Niente ce faccio. Bavi, bavi. Ma lo vedi che non cambi mai, sei sempre il solito. Non se fanno ste cose, sporcaccione. È il diavolo che te le fa fa. Zia. Ah. Ma com'è che a me mi piace tutta la roba del diavolo? Non sarò assatanato. Il bambino che interpreta Nino Manfredi appunto in età infantile deve andare a scuola, ma prima vuole lasciare un messaggio a questo strano personaggio, a questo Sant'Eusebio che crede, anche per via di quello che gli ha raccontato la zia, di aver incontrato durante la notte. Va nell'armadio, appende questo messaggio per il santo, chiedendogli un pallone appena avrà il tempo per regalarglielo, ma nel frattempo deve nascondersi perché la zia, che lo pensa a scuola, sta andando a fare il bagno. E così scruterà la zia che si spoglia per fare il bagno, la zia se ne accorge e ovviamente non la prende molto bene. Rotto porco schifoso, vergognati! Ma scazzo! Delinquente! Schifoso! E domattina devi fare la comunione e stasera te devi confessare. Come glielo racconti al prete? Come fai? Con che faccia ti presenti? Che gli dici? Ho visto mia zia tutta nuda, sì! Non volevo! Voglio vedere se te la dà la soluzione! Lo voglio proprio vedere! Avanti un altro. Tocca a te, vai tu. Nazareno. Nazareno! Che vuoi? Comandata, che t'ha detto? Sono cazzi tua. Mannaggia, che mi hai fatto di... Ma mi tocca riconfessarmi. Ti sei confessata? Sì. Vieni. Avete già fatto la penitenza? Sì. Andiamo, su. Avanti un altro. Vai tu. Ti sei confessato? Sì. Hai fatto la penitenza? Sì. Allora puoi andare. Ma cerca di mantenere intatto il tuo stato di purezza. E ricordati, digiuno assoluto. Anche una goccia d'acqua è sacrilegio. Ma tu chi sei? Sono Nazareno. Un'altra volta? Il momento della comunione è un momento importante per i bambini di quell'epoca, lo è anche ovviamente per il bambino del film, che come tutti gli altri si sente per la prima volta con un vestito fatto apposta per lui, tutto fresco, pulito, pettinato e al centro delle attenzioni. Ma il senso del peccato che ha introiettato in questo strano approccio alla religione fa sì che lui non voglia inghiottire l'ostia consacrata, perché teme per l'appunto di essere in peccato mortale, quindi si inventa un espediente proprio da bambino per evitare di inghiottirla. Ma che c'è? Benedetto, che succede? Guarda per aria. Mi strozza! Pronto? Mi strozza! Guarda per aria, che ti passa? Mi strozza! Aspetta, dove vai? E fategli bere un goccio d'acqua. Benedetto! Ora credo, sei emozionato. Sei spaventato. Vada bene. Benedetto! Vieni qua, Benedetto! Non è niente! Perché è scappato? Vieni qua subito! Benedetto! Benedetto, dove vai? Benedetto, torna subito su! Non mi far arrabbiare, non mi costringe a menarti pure oggi! Eccolo lì! Benedetto, torna indietro che te sporchi! Ma dove? C'ha il diavolo un corpo, quel ragazzino. Benedetto, torna in chiesa! Ma che c'è sto ragazzino? Deve sembra questo a tutto! Benedetto, vieni su! C'è sta Monsignore che ti aspetta, è venuto apposta! Te devi fare la fotografia tutti assieme! Sì, buono, Benedetto! Poi c'è il rinfresco, ci sono le paste! Tu la vuoi la cioccolata? Madonna santa! È cascato! Oddio! Figlio! Oddio! Figlio! Oddio! Figlio! Figlio! Fermi, fermi, non lo toccate! Benedetto! Ma stavolta non si può toccare finché perché? Non sappiamo quello che si è fatto. Benedetto! Andate un po' a chiamare un dottore, qualcuno. Vado io. Benedetto, intanto prepariamo una barella. Prendiamo una scala, ci mettiamo sopra la tavola d'un letto. Figlio mio. Buona, voi bambini tornate in chiesa, Ma perché? Ma c'è andati a chiamare un dottore? C'è andato a salvare l'ambulatorio. Ma tengo da La caduta del piccolo Nino Manfredi, una svolta decisiva per grazia ricevuta finché vi stiamo raccontando, perché nonostante il volo sia stato un volo abbastanza notevole, lui non si fa niente. Perché questo è successo? Probabilmente per l'agilità e per il fatto che i bambini di campagna di quell'epoca erano soliti fare imprese oggi credo proibitive per i loro coetanei. Ma la superstizione del paese indica in quello che è avvenuto un evidente miracolo, e siccome il protettore del bambino è Sant'Eusebio, questo miracolo viene attribuito a Sant'Eusebio. Adesso ascolteremo la festa del paese per ringraziare Sant'Eusebio, una processione nella quale risuona per la prima volta questa canzoncina scritta da Guido Maurizio De Angelis, che all'epoca componevano tantissime colonne sonore famose, e loro la sigla di del Sandokan televisivo e anche di tutti i film con Terence Hill e Bud Spencer, tipo di Umbaghi, e canzoni che all'epoca entrarono anche in classifica. Oggi Guido e Maurizio De Angelis non fanno più musica, ma fanno i produttori di fiction televisive con un certo successo. Avevano incominciato facendo cover in italiano dei Beatles, un intero album col loro gruppo che si chiamava GM, che evidentemente era Guido e Maurizio. Ascoltiamo appunto la processione di per grazia ricevuta e la consacrazione di quanto Sant'Eusebio sia importante per la vita di questo bambino. Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. E il demonio, annidatosi nella gola del fanciullo, ostruiva il passaggio di Gesù. Non lo toccate che è ancora fresco, non con la dita in bocca che vi avvelenate. E il comunicando sconvolto e insipiente fu colto all'improvviso da un desiderio folle di fuga che lo condusse fin sulla cima di un alto muro. Ed il tuono fa paura in campagna o fra le mura. Sant'Eusebio è qui con me. Quando piove tira vento o ti brucia il soleone, tu dall'alto del convento tieni aperto l'ombrellone. Lasciate passare! Mamma, non mi fai! Lasciate passare! Mamma, non mi fai! Fermi, che c'entra sto ragazzino? Mamma, fa la grazia! Mamma, il marista zappa! Se volete la grazia, chiedetelo direttamente al santo! Viva, viva, Sant'Eusebio, contadino dell'anima mia! Viva, viva, Sant'Eusebio, contadino! Cadde il poverino! Ma la mano vigile del nostro santo patrono fu lesta nell'afferrarlo e condurlo a terra in un volo incolume di foglia che cade. Ma perché provi a lui sto miracolo? È tanto cattivo quel ragazzino. Via, tu lo vedi cattivo, ma i santi guardano meglio di noi altri. Noi guardiamo storto e il santo guarda sempre dritto al cuore. E allora io glielo dedico, almeno d'ora in poi ci pensa lui. Viva, viva, quando il giorno del giudizio io sarò di fronte a te, te dimentica il mio vizio e perdona il tuo lacchè. Come vi abbiamo detto, la vicenda di Pergrazia Ricevuta è un continuo rimbalzo tra la contemporaneità, questo uomo interpretato da Nino Manfredi che deve essere salvato dall'incidente che l'ha portato in fin di vita, e il passato. Adesso torniamo alla contemporaneità. Nella cappella dell'ospedale incominciano a farsi vive delle persone che vogliono essere informate sulla sorte di Nino Manfredi. La più divertente è una signora che scopriamo essere una sua quasi suocera, che è tutta vestita di nero, molto elegante, con la faccia molto cattiva. Infatti la sua preghiera non è certo benaugurante per Nino Manfredi. Questa signora è interpretata da Paola Borboni, attrice di teatro e anche di cinema molto importante, con una vita privata assolutamente avventurosa, spesso al centro dell'attenzione delle cronache mondane dell'epoca. Ma questa non è ora di visite. C'ho il genero sotto i ferri. Chi ha visto la mia figliola, una ragazza alta con gli occhi chiari? Di sopra, al primo piano. Signore, fai la grazia ad una povera madre. Benedetto è più di là che di qua. Che ti ci vuole, signore? Allunga una mano e riprenditelo. Si metta qui, sta più comoda. Ah, grazie, grazie. C'è tua madre. Avvocato, non si doveva disturbare. Per carità, signore, per Giovanna questo ed altro. Avvocato mio, così doveva finire. Quanti anni buttati via. Ecco qui, sembra una vecchia. Dice che amore, ma che amore è senza la benedizione di Dio? Mamma, non si trasgrediscono in vano le leggi del Signore. Una cosa sola chiedevo, avvocato, che alla mia figliola fosse risparmiata la vergogna che ho dovuto sopportare io tutta la vita. Chiedevo troppo, avvocato? Non sono stata esaudita. Mamma. Per carità. Per carità. Come sta? Ma. Che gli stanno facendo? Stanno facendo del tutto, signora. Avvocato, se lei vuole ancora bene a Giovanna, le stia vicino. Dopo un grande dolore c'è bisogno di un amico. Se dipendesse solo da me. Perché? C'è qualche impedimento da parte sua? No, no, ma... Questa volta il Signore me la deve fare la grazia, perché io non prego per me, prego per mia figlia. Certo, Giovanna avrebbe meritato di più una ragazza così sensibile. E lui non è proprio un'aquila. No, avvocato, si sbaglia. Non è stupido, è cattivo. A me non mi ha mai incantato. Quello dove tocca fa danno. Ha sempre odiato tutti. Quello è imbevuto di veleno. Siamo tornati nel passato, qualche anno è trascorso da quell'incidente, ma adesso Benedetto, interpretato da Nino Manfredi, vive in un convento molto isolato sulle montagne, dove aiuta un gruppo di simpatici frati capeggiati dal priore Mario Scaccia nelle loro attività, che alternano la preghiera e la fabbricazione di medicinali fatti con le erbe. E allora Gesù fece sedere le turbe sull'erba e sollevò gli occhi al cielo, onde nostro Signore con 5.000 pani e 3.000 pesci sfamò 5 persone. E non schiopporno? Forse proprio in questo consiste il miracolo. Se sente che ora di pranzo è fra me e io. Ma che stava a lì? Era barbaro. Mannaggia voi, mannaggia! Ma chi ve l'ha dato l'ordine? Ne fate bollire a Barbaro prima della mente e la chiede vino? Intanto lo facevano a fuoco lento, così senza puriscere più, no? Ma che l'avete preso, per fagioli con le codiche? Raccolosimo, buon'anima, anche in punto di morte mi si è raccomandato. Benedetto, ricordate, era Barbaro per ultimo. E espirò, purtroppo. Fra Ginè, avanti, scolatelo e mettetelo in un bagno asciutto. Ah, fra Gesù, mi vorrei confessare. Ma non ti sei confessato stamattina? Alle 6, ma è mezzogiorno. E che ti sarà successo? Va bene stasera, adesso non c'ho manco la storia. Va via io. Namo? L'erba nuova va messa a mollo subito, che poi ti arrabbi. Voi ammollate e io mi confesso. E che ti confessi in pubblico? Ah, io non c'ho segreti. Chi me vuole? Namo, va. Namo. Dal Vangelo secondo Matteo, la cena di Betania. Aridai. Fa presto. Ci avete presente la colonia? Sì. Mentre che andavamo a fare l'erbe, c'era una squadra di ragazzini che stavano a giocare a saltacavalla, però senza la botta sul sedere. Allora... Cos'è questa saltacavalla? È quel gioco che... Ma come, non la conoscete? No. Ma si salta prima da bassi, poi... Voi siete troppo vecchio, se no vi facevo vedere. Insomma... Chi è vecchio? Venite qua, mettetevi sotto. Così si spiegamo prima. È bellissimo. Si mettono le mani sulle ginocchia. Mettetele così. Ecco, bravo. E abbassate la testa, eh? Ecco, loro la facevano così. Aspettate, andate, aspettate, vi devo far vedere come si fa, no? Rimettetevi sotto, E invece prima si dà la botta sul sedere, pa! E poi si salta, capito come? Capito. Se no che salta cavalla è? Hanno cominciato a litigare e così sono dovuto intervenire, gli ho dovuto insegnare. E poi sapete com'è? Ho giocato pure io. Ma il peccato? Dov'è? Ho giocato pure con le femmine. Quali femmine? Alla colonia ci stanno maschi e femmine, no? Sono mescolati. Ma quanti anni hanno? Ma le ragazzine ci avranno 7, 8 anni, anche meno. Senti, Benedetto. Sì. La confessione è un sacramento serio. Ma ci sta anche la maestra che ce n'ha 24, 25. E allora? Ho giocato anche con lei. A saltacavalla. E gli ho dato la botta sul sedere. E se no che saltacavalla è? Avanti, e poi? E poi basta. Ego te absolvo in nome Padre, et Filii, Spiritus Sancti, Amen. Fra Gesù, innannate? A magna. E la penitenza? Non c'è. Non c'è una penitenza piccola come i tuoi peccati, Benedetto. No, aspettate un momento. Da Gesù, io sono stato dedicato al santo. Sono tant'anni che sto qua dentro e ancora non mi so decidere. A me della sarta cavalla non me ne importava niente. Fra Gesù, forse non ci siamo capiti. Fra Gesù, io volevo dare solo la botta sul sedere a quella. Ma perché mi succedono queste cose? Che segno è? È segno che ci avrà un bel sedere. Fra Gesù. Me le tiri proprio fuori di bocca, figlio. In ogni modo, è un segno anche questo. La vicenda di Pergrazia ricevuta continua qui su Radio 3 per Hollywood Party. Adesso c'è stato questo arrivo che ha un po' turbato in senso positivo la vita del convento. È arrivato questo venditore ambulante, interpretato da Tano Cimarosa, che era un grande caratterista molto attivo in quegli anni, che alternava ruoli comici a parti da mafioso durissimo, fece anche due o tre regie cinematografiche e qualche tempo fa gli fu dedicato un bel documentario che si chiamava Lo chiamavano Zecchinetta, che era il nome con cui veniva chiamato dagli amici, che racconta la sua vita di caratterista a Cinecittà. Ma il suo arrivo, la sua attività, su questo piccolo camioncino col quale si aggira, ha fortemente ancora una volta colpito la sensibilità di Nino Manfredi, una sensibilità che è evidentemente compressa dalla vita di convento, che lui ha scelto per fuggire dal mondo e non per vocazione, cosa della quale si è accorta il priore, appunto interpretato da Mario Scaccia, che con una certa fermezza, ma anche con belle maniere, indica al giovane Manfredi che il suo destino non può essere quello, che in convento si sta se si è chiamati da Dio e non per scappare dal resto del mondo. È sparito? Non è sparito, è ritornato nel mondo. Voi ci siete mai stato? Certo. Se no, come avrei fatto a decidere di abbandonarlo? Per scegliere fra due cose bisogna conoscerle tutte e due. A te te viene mai la voglia di vedere come fa? A me no, io sto bene qui. Pensa se andassi a lavorare con Zichicco. Guideresti l'automobile sul serio. Chilometri e chilometri, paesi, città. Conosceresti altra gente, sempre facce nuove. Potresti imparare un mestiere, guadagnare dei soldi, incontrare una donna, una moglie. Ma che me volete mettere paura? Zichicco se n'è ricordato del veleno per i topi? E gli ho detto io di non portarlo, che fra Melchiorre assaggia tutto. Appena troverà un gatto ce lo porterà. Si non si mangia pure quello. Almeno dormiamo da cristiani. Senti, Benedetto. Eh? Io ti voglio aiutare. Dite. Non ti sembra che sia arrivato il momento di prendere una decisione? No, no, io non devo decidere niente. Io... Sì, lo so, aspetti il segno. Ma so 15 anni che lo aspetti. E se eri veramente vocato a quest'ora? Gesù, e che è sto coso? Che? Ah, è Santo Eusebio. L'ho fatto io. Statua di Santo Eusebio mica è facile trovarne, sapete. San Franceschi, Sant'Antoni, quando ne volete ve li tirano dietro, ma Santo Eusebio... Beh, certo, non è un capolavoro. No. Capisco che lo nascondi con la tenda. Se uno lo vede di notte, si mette paura. No, ma che paura? Anzi, io la sera la spalango la tenda, mi fa compagnia. Mi protegge e io mi addormo tranquillo. D'ora in poi dormirai da solo. Quello sparisce subito, aria, via, sciò. Perché? Perché questa è superstizione, idolatria, cosa da selvaggi. Anzi, peggio, perché almeno i selvaggi se li fanno più belli. Questo è il vero peccato tuo che dovresti confessare e non confessi mai. Può essere, ma il mio è un caso speciale. A me mi ha miracolato Santo Eusebio. Insomma, padre, io ormai mi ci sono abituato. E se voi me lo levate, io come faccio? Farai da solo. Il segno lo cercherai dentro di te. E se il Signore ti vorrà chiamare, ti raggiungerà dovunque. E lo sentirai. Anche vicino a Zichicco? Dov'è Dio? Eh? Dio, dove sta? E non lo so. E allora se non lo sai, perché lo stai aspettando proprio qui? Ma che fastidio vedo! Io mica mangio il pane a tradimento, io lavoro, sa! Benedetto. Eh? O via lui, o via te. Mi dispiace, Sant'Eusebio, ma non è colpa mia. Però lasciatevelo di scusare. Siccome una volta vi siete voluto far vedere da me... In tutto sto tempo potevate fare pure un altro sforzo per tornare un momento. Magari non di persona che so in sogno per avvertirmi. Bene, guarda, lasciamo perdere, su me non ci contare, così me liberavo pure io. Mannaggia quanto pesate, Santo sei. Beh, qui non ci state male. E poi quando c'è l'ambia Scarvino io vengo a trovare, eh. Benedetto, interpretato da Nino Manfredi, è riuscito comunque a convincere Priore di dargli ancora una possibilità, ma questa possibilità viene di nuovo vanificata da una situazione nuova. Ci sono dei bambini in colonia, questa parte del film è girata a Montegelato, in un posto vicino a Roma, dove furono girati tantissimi film d'avventure. Queste cascate dove i bambini giocano sono presenti in tantissimi film mitologici, in western e così via. Questi bambini sono capitanati da una bella maestra che si chiama Mariangela Melato e che ovviamente con la sua avvenenza colpisce Nino Manfredi, lo colpisce in maniera contraddittoria, la salva dal morso di una vipera e di fatto viene fortemente turbato dalla vicinanza con il corpo di lei. Vicinanza appunto che determina in lui una specie di shock nervoso, tant'è vero che non torna in convento e che i frati nella notte con le torce devono cercare di capire che cosa è successo al povero Benedetto. Benedetto! Benedetto! Eccolo qua! L'ho trovato! Che c'hai, Benedetto? Che ti è successo? Rispondi, figlio mio! Il segno. Ho avuto il segno, fratelli. Come scotta? C'è la febbre alta. Il segno. Portiamola al convento subito. Del laboratorio. Ma come, si è alzato? Con quella febbre. Maglio, vento, birbazione, che soffiava, meglio prato. Fra Michele, fa luce che qua se rompiamo l'osso del collo. Campione, c'è scopriglio culonnato. Benedetto, apri! Con lo zombo da somaro s'avvicina e poi ci fa. Si è chiuso dentro. Rosinego, sto andaccio, stata corta lì vormoni. Delira? Ma che delira? È ubriaco fradicio. E te botto quello maccio se la lette di garzoni. Me pizzica. Che fai, figliolo? Santo José, sei venuto finalmente. Hai visto, mi hai mandato il segno e io ho scelto. Ho resistito. Non mi ha fregato a me il serpente. Ti ha schiacciato la capoccia venosa. Così, vale dentro, mi ha ammazzato. Mi mette davanti una donna ignuda. Ma che la tentazione si fa con una donna ignuda? Ma perché mi hai preso? Posso io? La tentazione si fa nel cervello con un tarlo. Cra, cra. Per cui Santa Eusebia, il diavolo con rispetto parlarne è pure stronzo. Posso io alle donne? Zighecco il camioncino. Se ne stava lì ignuda. Morbida, bianca. Bella. Non me fa dalla via. Io qui ci sto bene, sto al sicuro. Il mondo è pieno di donne, che se anche sono vestite sotto, sono tutte ignude. Sono tutte ignude. Preghiamo, fratelli, preghiamo, perché la tentazione è forte. Me pizzica, me mozzica. Preghiamo, fratello, preghiamo. Bisogna staccarlo da noi, mandarlo nel mondo. È quello che ho sempre pensato, ma ora non lo so. Deve andar via. Dio è pace, serenità, non è tormento. Siamo sempre all'ascolto di Per Grazia Ricevuta, qui su Radio 3 per Hollywood Party Cinema alla Radio. Per Grazia Ricevuta, questo film di Nino Manfredi ha avuto una svolta perché effettivamente Benedetto, il protagonista interpretato proprio da Nino Manfredi, adesso non sta più in convento, se n'è andato via, si è preso un furgoncino per conto suo, fa il mestiere che aveva visto fare con grande ammirazione a Tano Cimarosa e si è messo a vendere nei paesi. Vende un capo piuttosto controverso all'epoca, delle mutande piuttosto, della biancheria intima piuttosto sexy, francese come si diceva allora. Il posto in cui si svolge questa scena è Monterosi, altro centro in cui si giravano tantissimi film, e nella piazza del paese cerca appunto di convincere le donne di campagna a comprare queste mutandine francesi tutte di pizzo. Venite, venite, venite, venite! Venite, venite, venite, venite! L'arcia di blocco bloccata alla frontiera di Modane è venduta sulla pubblica piazza col permesso della Guardia di Finanza. Tocchi, signorina, è nel tocco che si sente la seta di Parigi. Mi sta proprio bene. Guardi che articolo. Quanto va questa cuffietta? La cuffietta? Ma che scherziamo, signor? Questo è l'articolo vietato ai minori dei 18 anni e poi muschia a fare in testa una gradura? Sono mutande. Mutande? E come c'è il culo? È questa la grande invenzione di Parigi. Indeformabile, irrestringibile, adattabile a qualunque tipo di chiappa. Siete forte di fondamento? Ecco che la mutanna vi fa il mappamondo come un guanto. Siete piatta di dietro che manco vi fosse passato sul groppone San Giuseppe Falegname? Ecco che la mutanna vi aderisce come un francobollo. Non ne vanno a pensare. Accomodatevi, donne, comprate la mutanna francese e forti sconti a chi se la prova sul momento. Non ti vergogni. Prego, signore. Proprio qui vieni a dire queste sconcezze davanti alla casa del signore? E da che vembicciate? Voi pensate a custodire le anime. Ai corpi ci penso io. Difendete il matrimonio, donne. Difendete il matrimonio. Con questo articolo vostro marito non va più a giocare all'osteria. Resta a giocare a casa. Difendete il matrimonio. Siete contento adesso? L'avete fatta e scappa via? Me ne rallegro. Vuol dire che sono donne costumate. Ve rallegrate voi. E io ste mutande a chi le venne? All'orfanelle di Santa Rita? Sì, è meglio. L'orfanelle non hanno le scarpe, gli compriamo le mutande di Parigi. Vattene da questo paese, non ci tornare mai più. E qui la gente ha il timor di Dio. L'intervento del prete, interpretato da Gianni Rizzo, un altro grande caratterista del cinema italiano, spesso nei ruoli di viscido, cattivo, fellone e così via, impedisce a Nino Manfredi di compiere la sua missione, cioè di vendere le mutande ai paesani. Lui rimane a dormire dentro il suo camper, dentro questo suo camioncino durante la notte, e lì viene avvicinato da una donna del paese. Una donna del paese che è interpretata da Véronique Vandel, che era una starlet dell'epoca molto conosciuta, ha interpretato anche parecchi film con Dino Risi, con il quale ha avuto anche una relazione. È molto bella e molto provocante, e quindi ovviamente questo turba ancora di più l'equilibrio di Benedetto, di Nino Manfredi, che sappiamo essere molto instabile rispetto al gentil sesso. Volevo quelle mutande che ci avete voi, quelle di Parigi. Sapete, io quel paese sono un po' chiacchierata, non me voglio far vedere. Ce l'avete nere? Ecco. A quando le fate? C'è pure il pagliaccetto. Basta sganciare i bottoncini. Se ti interessa. Apposta, le francesi sono famose al mondo. Beh, sono francesi. Belle. Beh, fate manava che si passa qualcuno e mi vedi. Ma non volevi comprare mutandini? Sì, sì, ma chissà quanto costano. Vorrà dire che andrò senza. Se resti a farmi un po' di compagnia, ti regalo tutta la parure. Oh, ma che vi siete messo in testa? Io sono una ragazza per bene, sapete. Ma chi ti ha detto niente? Mettete a sede qui. Meglio mantenere le distanze. Dovete essere una lenza voi. Bobby, Bobby. Cantami qualche cosa. Eh sì. Mo te faccio pure la serenata. Va bene Verde Luna? Sì, sì, canta Verde Luna. Ah, anche vizioso. Mi piace. Canta, canta. Tu che mi sorridi Verde Luna, tu che già conosci la mia pena. Dimmi che io l'amo più di prima. Per deluna, forse allora capirà. Ma che fai? Mi svegli? Aspetta! Aspetta, andò avanti! Non voglio il pagliaccetto? Mettitelo tu, quello che è meglio! Continua la vicenda di Per grazia ricevuta, continua adesso di nuovo nella contemporaneità, nell'ospedale dove si sta cercando di curare questo uomo che ha avuto un grave incidente, e continua anche l'evoluzione dei vari personaggi che sono lì in ospedale: l'avvocato interpretato da Gastone Pescucci, la mancata suocera interpretata da Paolo Borboni e la compagna di Lino Manfredi che è invece interpretata da Delia Boccardo. Tutte stanno parlando con il cappellano. Delia Boccardo è stata un'attrice abbastanza famosa in quell'epoca, aveva interpretato parecchi western, parecchi polizieschi, ma anche per esempio un film di Blake Edwards, L'infallibile ispettore Clouseau, nel quale aveva cercato quindi una carriera internazionale che in parte ha avuto e in parte no. Si è poi un po' ritirata dal cinema optando per la televisione, infatti è stata la protagonista assoluta di Incantesimo, una delle soap di maggior successo della televisione italiana. Comunque all'epoca era considerata un'attrice importante, tant'è vero che aveva interpretato due film che piacquero molto alla critica dell'epoca, anche se non ebbero un grande successo di pubblico, però dei quali si parlò tanto, che erano I Cannibali di Liliana Cavani e Equinozio di Maurizio Ponzi, due film che andarono ai festival e che crearono dibattito. Questa era Delia Boccardo e questa è la vicenda di Per grazia ricevuta. Loro sono i parenti di quel povero giovane? Dica a mio padre, che è successo? No, niente, non vi allarmate, per carità. È ancora sotto operazione. È stata la madre direttrice che mi ha detto di venirvi a trovare, semmai ci fosse bisogno di me. Mi ha spiegato un po'. No, grazie, padre, non c'è bisogno. Lei è la moglie? No. La compagna? Però, mi dica una cosa. Come si chiama lei? Giovanna. Giovanna. Se in un momento come questo lui, pover'uomo, sentisse il bisogno di santificare il suo rapporto con lei, lei se la prende la responsabilità di un rifiuto? Padre, lei non sa, le cose non sono così semplici. Cerchiamo di non complicarle ancora di più. Ma perché? Non capisco. Io sono tant'anni che non capisco. E lei vuol capire tutto a un tratto. Nessuno l'ha mai capito, quello lì. Io l'ho capito. E mio padre l'ha capito. Un altro pazzo. E fra pazzi, certo, si capiscono. Abbiamo capito da questa vicenda quanto sia stato importante il padre di Delia Boccardo nella vita di Delia Boccardo e anche nella vita di Nino Manfredi. Adesso torniamo nel passato e torniamo al momento in cui Nino Manfredi incontra appunto questo padre, questo farmacista interpretato da Lionel Stander, che era un attore che era stato blacklisted, cioè sulle liste nere negli Stati Uniti, e quindi si era trasferito in Italia, dove ha girato tantissimi film importanti e meno importanti. Pare fosse molto, molto simpatico e molto estroverso, lo è sicuramente anche in questo film, dove interpreta appunto un farmacista che ha una farmacia in un paese che non sappiamo qual è, ma che chiunque può riconoscere essere il bellissimo centro umbro di Todi. L'incontro tra i due è un'altra svolta decisiva nella vicenda di Per grazia ricevuta. Mi scusi, ma a quest'ora non la sua faccia pensavo volesse un anticoncezionale meccanico. E invece voglio un sonnifero. C'ho la faccia da sonnifero. No, lei ce l'ha da anticoncezionale meccanico. Mi scusi, ma sono 40 anni e faccio sto mestiere, è difficile mi sbagli. Io non dico che lei si è convinto in buona fede di volere un sonnifero. Ma si lasci sorvire, insomma, se vuole il mio parere, lei ha più bisogno di puttane e di dormire. Comunque, ecco, 1.300 lire. È il meglio che c'ha? No. Questo è meglio, 700. Ma come, meglio e costa da meno? Porcheria per porcheria costa di meno, quindi è meglio. C'è un goccio d'acqua, per piacere? Sicuro. Se lei pensa di guarire l'insonnia o i sonniferi, sta fresco. E che devo fare? Bisogna riuscire a dare un senso al sonno. Il sonno di per sé è una cosa ignobile, sterile e improduttivo. Il suo valore primordiale sarebbe quello di premio, di meritata ricompensa, come si dice, all'onesta fatica, eccetera, eccetera. Il cosiddetto sonno del giusto. Ma quanti sono i giusti a questo mondo? Lei è giusto? No, io sono sbagliato. Appunto. E lei dica un po', lei dorme? Certo. E perché? Perché lei, secondo lei, si meriterebbe il premio? Assolutamente no. Ah. Ma io appunto sono riuscito a dare un senso diverso al mio sonno. Io dormo di giorno. E beh? Il mio sonno assume un preciso significato di rifiuto. La vita così com'è non mi piace. Ma siccome per fortuna gli ingranaggi principali, gli uffici, la politica, le banche girano di giorno, la vita invece di viverla, io me la dormo. In più vivo la notte, vuol mettere. Di notte la realtà me la invento io, me la faccio come mi pare, è fantasia, è pensiero. Provi. Ma che provo? Lei perché fa il farmacista, ma il commesso viaggiatore notturno mica esiste, sa? Pure a me nella vita mi potrebbe non piacere qualche cosa, anzi non mi piace. E se la volemo di tutta, mi fa schifo del giorno e pure di notte. Ma che devo fare? Lei la notte attacca le figurine, ma a me mi tocca di dormire. Dice che gli devo dare un significato, glielo do sì. Significa che se non dormo, domani mi reggo in piedi. Va bene? Lei è credente? Perché? Volevo mostrarle qualcosa. Non sono figurine. E che? Un mio vecchio progetto a cui lavoro da anni. La mostra della provvidenza divina. Ah, no, no. No. Non voglio parlare di queste cose. Dovevo immaginarlo che lei... No, no, mi dispiace. Buonanotte. Divina provvidenza, in senso ironico. Ne ho altri 22 di album come questo. Oh, sono tutti fatti veri. Articoli, fotografie, che poi andrebbero ingigantiti su pannelli per allestire la mostra. Senta questo. Le leggo un titolo a caso. Gli cresce la barba all'indentro e muore soffocato. Formidabile, non trova. C'è la raffinatezza del grande carnefice. Se te è start-tra. Batte la testa e rimane in coma per 18 anni. Infatti è già abbastanza sensazionale di per sé, ma stia a sentire come l'è andata a finire. Di un'eleganza senza paragoni, un concede tanto sì allo spettacolo. Lei come l'avrebbe fatto finire? Dopo 18 anni di coma, si sveglia come se niente fosse e chiede giornale e cappuccino. Un minimo di corpo di scena, gli pare. Invece, niente. Si sveglia e muore. Per me è il vertice dell'arte, l'ovvio assoluto. E i miracoli? Raccoglie anche i miracoli? I miracoli. L'unico miracolo accertato è l'incredibile facilità che ha la gente a credere nei miracoli. Lei ci crede? L'incontro tra Lionel Stander, il farmacista, e il suo cliente Nino Manfredi continua in una notte in cui praticamente Nino Manfredi racconta a lui, anche per raccontare a se stesso, tutto quanto gli è successo nella vita, anche tutte le vicende che riguardano i miracoli veri e presunti dei quali è stato protagonista e che hanno segnato in modo indelebile tutta la sua esistenza. Mi sei inceppato il cervello, non sei poi un po' di caffè? Tanto bello è capito. Se mi dai due foto, una di faccia e una di profilo, ti metto anche te nella mostra. Ecco, ecco, io mi sento due. Due che stanno sempre a litigare, a fa cazzotti, e mentre loro semenano, io mi stanco. E allora ne la faccio più. E poi tanto vince sempre quello, il più fregnone e fio de mignotta. Bisogna eliminarlo. Sì, è una parola. Provate a pensare che Dio non esiste. Non mi riesce. Io non ti ho mica chiesto di esserne convinto, fa solo finta per un momento che non c'è. E ora pensa a te, al mondo, alla gente, senza nessuno che ti minaccia dall'alto, che ti spiano e ti ricatta. Non ti sembra che la vita sia più allegra, più onesta, più sopportabile, senza il cacchio della provvidenza, del pentimento, del perdono? Tutto diventa chiaro, tutto torna. Capisci finalmente tutto, persino il male, il dolore, mostruoso se te lo manda Dio, diventa accettabile senza più niente di oscuro, di minaccioso, se lo giustifichi come un fenomeno naturale. Porcaccia zozza, proprio stanotte me la fa effetto il sonnifero. Qualcuno ha detto che se Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo. Io dico che se anche ci fosse bisognerebbe eliminarlo come un dovere sociale, una misura di salute pubblica. Ma tu devi mica capire tutto insieme, comincia a vincere qualche tabù. I tabù? E che so i tabù? Certe regole morali. Com'è che richiamate voi? i peccati. Devo peccare? Beh, cominciavo qualcosina di facile. I miei comandamenti sono già in ordine crescente di difficoltà. Per esempio, hai mai tirato giù qualche bel bestemmione? Una volta, ma... E che ti è successo? Ha presente il santuario di Montelupo? So quasi 2000 metri tutti così. Beh, io me li sono fatti tutti a piedi scarsi e con pietrone dei 40 kg sulle spalle. Ai, non me lo dire, non è possibile. Ma come fa un uomo a ridursi in codesto stato? Ma io domattina... Anzi, stamattina devo partire. Lei sta aperto tutte le sere? Tranne il mercoledì. Saprà anche di giorno. Ma ci sta la mia figliola. Sua figlia? È sposato. Ma allora non hai capito proprio un'amata salsiccia. Ma ti pare che uno con le mie idee si possa sposare? La vita erotica degli uomini e delle donne deve essere un volume di racconti d'amore, non un romanzo. E poi io sono un po' un apostolo, un santo ateo. E i santi non si sposano. Debbono suddividersi troppo, pensare troppo agli altri. Se mi addormento un quarto d'ora, gli dispiace. Fai pure. Lì c'è un asdraio. Quando presi la patente, lavorai tutta la notte come un matto. Per dipingere un ex voto di ringraziamento. Feci me su una macchina rossa. Con due angeli che la tiravano. Dopo questa lunga notte di confessioni, Nino Manfredi si addormenta praticamente chiedendo quasi protezione a questo farmacista. Sembra essere tornato bambino, perché si addormenta proprio sulle sue ginocchia dopo aver parlato fino all'ultimo, anche in virtù del sonnifero che ha assunto. È in questa posizione che lo vede per la prima volta la figlia del farmacista, appunto la Delia Boccardo, che abbiamo già conosciuto, e immediatamente, come ascoltiamo, si innamora di lui. Credo di avergli voluto bene subito. Da quel primo momento. E lui? Lui non andò più via. Perse l'impiego. Pur di restare lì, si trova un posto come guardiano in una fabbrica. Capitan! Che c'è? Vieni dentro, che ti prendo il polmonite! E almeno mi curate per qualche cosa. È una bellissima storia d'amore. Certo, lui doveva essere proprio innamorato, innamoratissimo per comportarsi così. No. Allora lui era soltanto innamorato di mio padre. E si era attaccato in una maniera come un bambino. Non poteva vivere senza di lui. A questo punto Oreste, il farmacista interpretato da Lionel Stender, prende proprio come una missione quella di cambiare la vita e cambiare la mentalità di questo ragazzo, di Benedetto, interpretato da Nino Manfredi, che gli è piombato nella farmacia di notte e del quale anche lui per il quale anche lui prova un sentimento quantomeno di protezione. Sentimento di protezione che lo spinge anche a fargli conoscere la gioia del sesso attraverso una prostituta, e lo porta quindi durante la notte, che sappiamo essere la parte della giornata in cui lui si trova meglio, lo porta da questa prostituta che lui conosce bene, ma i risultati non sono quelli che lui si aspettava. Però forse lei stava andando a dormire, io magari posso rimandare. Io dormo di notte, io la notte vado, vivo! Ah. E poi rimando, e rimandi, c'è quasi 40 anni, rimanda un altro po'. Ma che anticipato, si paga dopo, a cose fatte. Non ti mettere anche il problema dei quattrini ora, non ti manca è quello. Te fa conto che Leone è innamorata pazza di te, che... Che tu fai? Respiro. A me mi pare tu boccheggi. Sta calmo, sdrammatizza. Sì. Lascia fare a lei, le ho spiegato tutto, la situazione. Sì, sì. Aspetta, c'è la luce accesa, è ancora in piedi. Vieni stasera, c'è spettacolo, ci si diverte. Che? Oreste! E lei, avvocato? Oreste! Con una calma superiore a ogni previsione, questa vicenda, oltre che dolorosa, è anche ridicola alla mia età. Mi avvilisce molto, signora, ma le assicuro che... No, sono anni che lei mi racconta le sue ragioni. Ma insomma, chi se ne... È quella? Come quella? E lei ora mi viene... Ma che hai capito? Quella è la Iena, la madre di mia figlia. Ah. E quelli sono i suoi avvocati. Tutti contro di me. C'è riunione plenaria. È un porco! Ecco, il porco sono io. Io ci vengo quasi tutti i mercoledì. Mi metto qui in palco reale o a teatro e me la godo. Tieni, prendi posto. E me la godo anche con orgoglio. Perché? Perché pensa al bene che l'ho fatto? Non la guardare ora, pare impossibile, ma a suo tempo era una sventola e ti faceva girare la testa. Qualcuno c'è morto anche in duello, eh? Due occhi neri da pazza, perché pazza l'è sempre stata. Capelli neri, lunghi, che arrivavano ai ginocchi. Due poppe, pareando chiappe, e viceversa. Ma la cosa più importante è il conflitto tra dentro e fuori. L'anima di una beghina nel corpo di una grande peccatrice. Ecco, tu incontri una così. Tu la seduci e l'ingravidi e tu fai. Io? È un'ipotesi. Tu la seduci e l'ingravidi e tu fate. Come che faccio? Io la sposo. Sì, eh? Perché oltre che mischiano sei anche un grande egoista. Come tutti. Ma io no. Io l'ho salvata. Salvata? Se la sposavo, che la sarebbe ora? Eh? Il relitto di un'esistenza qualunque. Una povera vecchiuccia spenta. E invece sono 30 anni e mi denuncia per circonvenzione, plagio, violenza carnale. E per merito mio, eccola lì, ancora giovane, viva con la pistola a pugno. Però io non sono mica tanto d'accordo. No, eh? E no, scusi. Non è onesto. A me se mi succedesse una cosa così... Ho capito. Sto qui a perdere tempo per insegnarti cose da università e ancora ti devo portare a iscriverti all'asilo. Prendi il panierino alla merenda e vien via. La visita alla prostituta è stato un fallimento che ha un po' indispettito Oreste, ma che invece ha fatto molto piacere a Giovanna, alla ragazza, sua figlia interpretata da Delia Boccardo, che dalla finestra aveva assistito al dialogo e anche al ritorno senza aver consumato da parte di Benedetto. E sarà proprio forse questo passaggio a essere decisivo, perché qualche notte dopo, mentre Nino Manfredi sta dormendo nel posto dove sta svolgendo le funzioni di guardiano notturno, che è una fabbrica di lampadari, quindi un posto in cui ci sono molte luci e molti effetti visivi, vede arrivare con un flu, una fotografia flu che sembra quasi un sogno, vede arrivare Delia Boccardo che gli propone di unirsi a lui. Giovanna, che fai qui a quest'ora? Ti ho svegliato? Sì, adesso dormo bene. Io invece comincio a non dormire più. Ieri notte sono rimasta sveglia sino a che voi non siete tornati. Benedetto, vorrei che tu provassi con me. Anzi, che provassimo insieme. Perché anch'io sono come te. Se non vuoi, me ne vado. Se invece vuoi, fammi un po' di posto. E di Castoro? Sì. Io nei boschi li ho visti accoppiarsi i castori e figliare. Nascono tutti i castori. È naturale. Non voglio che nasca nessuno che somiglia a me. Non ci pensare. Io ti voglio bene. Prova a volermene un po' anche tu. E sarà facile. Perché le cose giuste sono facili. Perché non mi abbracci? Perché sto proprio in pizzo e se mi lascio casco di sotto. Continua la vicenda di Per grazia ricevuta con un'altra svolta importante. Il rapporto tra i due sta per sfociare in un matrimonio. Il paese è tutto mobilitato. Sono già sull'altare, i parenti sono schierati, il prete sta parlando, ma Nino Manfredi è molto nervoso. Vuoi tu, Benedetto Parisi, prendere in moglie la qui presente Giovanna Visciani? Scusi, non ho capito la domanda. Figliolo, lei sta inginocchiato qui con un garofano all'occhiello. La signorina in mano i fiori d'arancio. Io sto bardato così, o che domanda gli posso aver fatto? Comunque gliela ripeto. Vuoi tu, Benedetto Parisi, prendere in moglie la qui presente Giovanna Visciani? Se vuoi, rispondi sì. Figliuolo, vuoi o non vuoi? Non vuole. Non vogliamo, padre. Ci scusi. Che figura. Che ti importa? Davvero non ti importa? Mi importa solo di te. Viva gli sposi! Auguri, auguri! Auguri! Papà! Non mi chiamare più papà! Da questo momento non vi conosco! Per me siete degli estranei! No! Non ci siamo sposati! Non ci siamo sposati! Gli ho detto di no! Gliel'ho fatta! È vero? Sì. Sì. Figlio mio, figli miei! Però il viaggio di nozze lo facciamo lo stesso. Certo, la vita dovrebbe essere tutta un viaggio di nozze. Io non sono mai stato sposato e ne ho fatti 32. Continuano i balzi nel tempo in Per Grazia Ricevuta. Siamo tornati nell'ospedale dove Nino Manfredi deve essere curato e la sua vita deve essere salvata. E qui un altro elemento nuovo fa capolino. Delia Boccardo è incinta di Nino Manfredi, dell'uomo che non ha potuto sposare ma che ama profondamente. 6 anni di concubinaggio e suo padre contento come una Pasqua. Sono pazzi o no? Più che altro peccatori. Venite! La signorina si è sentita male. Oh, Giovanna, per carità. Bambina, via, su. La mamma ti porta a casa. Non puoi restare qui. Poverina, sarà stanca? No, sono incinta. Giovanna, ma che dici? Mamma, per favore. L'avvocato lo sa benissimo che aspetto un figlio da Benedetto. Gliel'ho detto io. Ma non ti preoccupare. L'avvocato è disposto a sposarmi lo stesso, purché si copra lo scandalo e passi per figlio suo. Questo è molto nobile da parte sua, avvocato. Andate via, per favore! Andate via! Padre, se li porti via, non li posso più vedere qua dentro. Se li porti via tutte e due, ci voglio stare solo io qui. Venga, signore. Andiamo, è meglio. Comunque pregherò per te, figliola. La vita del vecchio viveur interpretato da Lionel Stender, il farmacista che è entrato così fortemente nella personalità di Benedetto, di Nino Manfredi, è ormai sul letto di morte, ha poco tempo ancora di fronte a sé e deve compiere delle decisioni, anche perché intorno a lui si stanno preparando i riti dell'estremunzione. Ma cosa ha combinato? Ho rotto un vaso, che sarà mai? Vieni, siediti. Venendo qui ho incontrato il dottore, mi ha detto che non è niente di grave. Ha detto sì? Sì, sì, ha detto che non è niente di grave. Beh, sono contento, almeno muoio guarito. Caccia! Prendimi quel bicchiere. Bisogna fare attenzione quando si sente male. Se invece del solito muccolo ti scappa un dio mio, sei pelle nel gregge, starò attento. Che c'è da ride? Pensavo alla madre di Giovanna. Ah. Domani c'era l'udienza. L'ho fregata anche stavolta. Rinviata. Motivo? Perché l'imputato è diventato parte lesa. Qualcuno ha detto, o l'ho pensato da solo, che la bestemmia aiuta a vivere e la preghiera a morire. Tutte mischierate. La morte è sempre vita, è un atto della vita. L'uomo non lascia nulla, solo il pensiero rimane, l'esempio. Perciò niente pianti. Ma io non so preparato, non so che fa. Finché c'era lei, ma così all'improvviso. Il bambino che deve nascere, io... Noi che restiamo soli. Io non sono mai stato vicino a uno... A uno che muore? E nemmeno vicino a uno che nasce. È peggio di morire. Ma allora almeno se ne accorgono. E poi sono più bellini. Vedrai come sarà bellino. Lo vedrà anche lei, vero? Ma certo, mi fece così anche 8 anni fa e poi sono stato benone. E adesso vai, questa è un'ora di visite. Io di giorno dormo. La vicenda di Per Grazia Ricevuta sta per volgere verso il termine. Una svolta importante è data proprio dalla morte del farmacista, di questo farmacista che col suo ateismo militante, col suo epicureismo è stato così importante nella vita di Benedetto. Questo stesso farmacista in punto di morte decide, e Benedetto lo vede, di baciare il crocifisso che gli viene proposto. È una forma di paura che chissà con quale coscienza lui ha potuto svolgere, ma sicuramente questo gesto mette completamente in discussione la figura del farmacista e anche le sue teorie agli occhi di Benedetto, che sappiamo essere molto influenzabile dalle cose che avvengono intorno a lui. A questo punto lui, decisamente sconvolto, va a parlare con Giovanna. Beh, io vado. Non ti preoccupare, tanto non è morto. All'ultimo momento ha preferito andare all'altro mondo. Anche lui. Allontanatosi di casa, Benedetto si reca in una scogliera, in un posto molto, molto distante, molto isolato. C'è una strada, in questa strada a un certo punto, quando lui ha già preso la rincorsa per buttarsi giù dalla scogliera, passa un camioncino carico di verdura con un contadino. Il contadino si ferma, lui gli fa segno di passare, poi, visto che questo non si muove, continua nella sua rincorsa e si butta giù dalla scogliera. La presenza di questo contadino è una presenza fondamentale, anche se completamente muta, così come tutta la scena, perché è grazie a lui che arrivano subito i soccorsi, quindi il povero Nino Manfredi ha qualche possibilità di essere salvato. Ma al tempo stesso questa scena imprime decisamente una svolta drammatica alla vicenda di Pergrazia ricevuta. Suora, mi raccomando, le consegne. Vada a riposare un po' anche lei adesso. Si salverà? Penso che ce l'abbiamo fatta. Ma è stato proprio un miracolo. Un film come Pergrazia ricevuta non poteva non finire in maniera sarcastica. Anche questo miracolo che il primario, interpretato da Fausto Tozzi, pronuncia con allusione all'aspetto scientifico della vicenda, viene ovviamente vissuto da Nino Manfredi come un'ulteriore contraddizione nel bagaglio della sua vita, perseguitato da miracoli veri e miracoli presunti. È un finale ironico, sarcastico, in un film che è molto ironico e molto sarcastico, Pergrazia ricevuta appunto, e che proprio per questo era perfettamente aderente a come l'ultima commedia italiana, appunto nel 1970, quando il film uscì, veniva interpretata. Cioè era un film decisamente amaro, tutto sommato anche privo di grandi speranze, ma capace di puntualizzare un fenomeno sociale come era quello dell'ossessione religiosa che spesso i ragazzi di quell'età si portavano dietro dall'educazione infantile. Nino Manfredi ha voluto con questo film raccontare non tanto la sua autobiografia quanto una situazione che lui conosceva molto bene, perché come sappiamo veniva da un piccolo paese della Ciociaria e ha dimostrato con questo film anche di saper svolgere il mestiere di regista che per la prima volta affrontava in maniera efficiente, anche se supportato da due grandi sceneggiatori quali erano Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, che si vedono tantissimo soprattutto nei dialoghi di questo film, che come abbiamo ascoltato sono molto densi, molto importanti, molto essenziali e anche molto capaci di raccontare i temi che volevano essere sottolineati da Nino Manfredi. Vi abbiamo raccontato qui a Hollywood Party per il cinema da radio Pergrazia ricevuta, premio come miglior opera prima a Cannes nel 1970 e nello stesso anno maggior incasso nelle sale italiane. L'abbiamo fatto qui a Hollywood Party con Maddalena Nisci, con Francesca Levi, con Miriam Marti e con il sottoscritto Steve Della Casa, che vi saluta e vi dà appuntamento alle puntate tutti i giorni alle 19 di Hollywood Party. Arrivederci.